Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Un saluto a tutti, eccoci ad una nuova puntata di Soinfo, la rubrica che ogni settimana vi accompagna con informazioni e consigli pratici sui temi della salute, attraverso uno sguardo plurale, il punto di vista della donna, delle bambine e dei bambini. Oggi, continuando ad affrontare i molteplici aspetti del tema della maternità, ci soffermiamo a parlare della terapia intensiva neonatale e patologia neonatale, ovvero di quel reparto, vera eccellenza dell'ospedale di Treviso, che accoglie neonati e neonate prematuri di basso o bassissimo peso, con patologie o malformazioni varie. Entriamo in questo reparto speciale in punta di piedi, incontrando Francesca Tormena, dirigente medico dell'unità di terapia intensiva neonatale e patologia neonatale di Treviso. Sì, il nostro reparto è un reparto di terapia intensiva neonatale. Il nostro reparto è costituito da un organico di 8 medici e una trentina di infermieri. Nel nostro reparto vengono ricoverati prevalentemente bambini pretermine. Nell'ultimo anno abbiamo avuto circa 2500 nati e di questi 400 sono stati ricoverati presso la nostra terapia intensiva. Di questi oltre 90 hanno avuto un peso neonatale inferiore a 1500 grammi. Il nostro reparto è fornito delle migliori tecnologie per garantire la sopravvivenza di questa categoria di pazienti ad alto rischio. L'altra cosa che ci contraddistingue è il sostegno per quanto riguarda l'allattamento al seno, sia nel reparto di terapia intensiva neonatale sia al nido. La cosa che ci contraddistingue e che abbiamo iniziato per primi nel Veneto è la costituzione di una banca del latte materno per garantire a tutti i neonati di usufruire di questo alimento, che è il migliore in assoluto. E le mamme possono donare il latte e il latte viene fornito ai bambini, ai loro bambini, in maniera sicura e controllata. L'altra cosa importante che abbiamo fatto negli ultimi anni è l'apertura del nostro reparto per i genitori 24 ore su 24, proprio per garantire la presenza genitoriale, che è molto importante sia per instaurare da subito una relazione con il bambino, sia perché si è visto che ha anche proprio delle implicazioni sul miglioramento della sopravvivenza e anche sugli esiti dei bambini. Un'altra cosa molto importante che facciamo è un sostegno psicologico ai genitori. Il nostro reparto è dotato di un'assistenza di una psicologa e di una neuropsichiatra infantile che aiuta le mamme e i papà in questo percorso molto difficile e lungo che fa seguito a una nascita di un bambino pretermine. Per ultimo, ma non ultimo, voglio dire che poi, una volta dimessi, i nostri bambini vengono continuamente seguiti per i primi 5 anni di vita in un ambulatorio di follow-up, in modo da individuare precocemente eventuali problemi e di instaurare subito degli interventi riabilitativi. Segnaliamo infine un interessante appuntamento rivolto ai professionisti della salute. L'ASL 7, in collaborazione con Sor Optimist Club di Conegliano Vittorio Veneto, organizza il corso di formazione Medicina di genere, la salute su misura, che si svolgerà venerdì 11 novembre 2016 nella sala Monsignor Dal Col a Conegliano. Per informazioni www.uls7.it. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.